Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo la conversazione interrotta ieri con Fabrizio Dughiero, professore al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, di cui è anche prorettore e grande esperto di fotovoltaico. Buonasera Dughiero. Buonasera a tutti voi, buonasera a lei. Dunque, ieri lei ci ha raccontato che cosa succede nei grandi impianti industriali di produzione del fotovoltaico, molti dei quali si trovano in Cina, che peraltro lei ha visitato non solo la Cina, proprio gli impianti fotovoltaici e che conosce molto bene. Ecco, sono in molti a pensare che ormai la partita del fotovoltaico dal punto di vista industriale del fotovoltaico al silicio sia persa, proprio perché gli investimenti fatti dalla Cina sono tali da creare delle economie di scala, quindi anche delle barriere all'ingresso molto elevate. Lei invece sostiene che la produzione industriale di fotovoltaico possa tornare in Europa a patto naturalmente di innovare. Allora, cominciamo da qui. Le chiedo quali sono gli aspetti che sono ancora migliorabili nel processo di produzione dei pannelli fotovoltaici che ieri abbiamo brevemente raccontato. Allora diciamo che il costo di solito di un modulo fotovoltaico si misura in euro per watt di picco. Allora io posso diminuire il costo o aumentando l'efficienza del modulo o diminuendo i costi di processo. Sulla base di questo che ho appena detto, a mio parere si può lavorare su almeno tre parti del processo produttivo. Se si ricorda, ieri dicevamo produzione di polisilicon, lingotti e wafering, celle e moduli. Direi che nelle ultime tre parti, quindi lingotti e wafer, celle e moduli, si può fare ancora molto in Europa. Sulla parte, ad esempio, lingotti, ci sono dei processi... Ecco, ricordiamolo, i lingotti sono appunto dei lingotti di silicio puro che vengono affettati e queste fette sono sostanzialmente le celle fotovoltaiche che siamo abituati a vedere. Le celle fotovoltaiche, sì. Di questo processo si possono pensare dei processi innovativi che consentono di risparmiare energia, ma nello stesso tempo consentono di dare delle caratteristiche al wafer per le quali poi la cella ha un rendimento molto più alto rispetto a quello che ha attualmente. Quindi si può lavorare su questa parte del processo. Ci sono degli altri processi poi che possono essere pensati nell'aumentare il rendimento di cella. Sto pensando alle celle cosiddette in gergo IBC, ma non voglio stare qui a dilungarmi su tecnicismi, va bene, ma queste celle IBC. E poi c'è la parte dei moduli che a mio parere è ancora abbastanza, come dire, inesplorata. Se io vado a vedere un modulo come è fatto adesso, non è tanto diverso da quello che veniva fatto 10 anni fa. E quindi anche lì, a mio parere, e non è soltanto mio parere, certo, ma ci sono dei gruppi di ricerca che stanno lavorando su questo, va bene, si potrebbe dare molto valore aggiunto in modo tale da poter riportare una filiera produttiva anche in Europa. Ecco, tra l'altro lì avete messo in piedi come università, ma in partnership con le varie realtà locali, un polo fotovoltaico Veneto che ha questa ambizione, no? Di fare ricerca anche con l'obiettivo prima o poi di riportare l'industria fotovoltaica in Europa e magari anche in Italia. E c'è un progetto di cui lei si occupa direttamente, è un nuovo tipo di forno proprio per fare quei lingotti di cui abbiamo parlato, no? Assolutamente sì, è un processo produttivo innovativo che si basa su una tecnologia che non è quella che si adopera attualmente, che è basata sul riscaldamento a resistenze, ma si basa su un riscaldamento ad induzione. Come quello dei fornelli a induzione, per capirsi, no? Lo stesso. Esattamente, come quello dei fornelli ad induzione, solo che in quel caso va a scaldare un silicio fuso. Sul silicio fuso l'induzione può lavorare in due modalità, la prima che è quella di riscaldarlo e di riscaldarlo in modo controllato. La seconda è quella che si possono utilizzare i campi elettromagnetici anche per mescolare in modo adeguato il silicio in modo tale da renderlo ancora più puro nella fase di solidificazione che anch'essa viene controllata in maniera perfetta da questa tecnologia. E quindi con questo forno si riesce a fare un lingotto di silicio multicristallino molto più performante rispetto ai lingotti che si fanno attualmente. E quindi consente di aumentare l'efficienza e va nella direzione che avevamo detto all'inizio. E forse anche permette di ridurre i costi contemporaneamente. Certo, di ridurre i costi perché con questa tecnologia riusciamo a riciclare anche quelle che sono, tra virgolette, mi lasci dire, le polveri che vengono consumate durante il processo di taglio dei wafer, che non sono poche, perché il processo di taglio ha un rendimento del 50% attualmente. E questa è una delle direzioni in cui anche come polo fotovoltaico Veneto state lavorando, ce ne sono diverse altre. Ecco, ma questa maggiore efficienza che possiamo immaginare adottando tecniche innovative come quella di cui abbiamo appena parlato, è veramente sufficiente a battere la Cina, a giocarsela sul piano competitivo? Per esempio l'energia da noi costa tanto, in Cina costa poco già in partenza, fanno tutto col carbone, pochissimi controlli ambientali. Certo, ma come le dicevo, probabilmente nella prima parte, quella della produzione del polisilico, che è quella più onerosa dal punto di vista del consumo energetico, non vale la pena cominciare a produrre qui in Italia. Ma è negli altri processi che non sono così esosi dal punto di vista energetico, potremmo lavorare per creare dei processi produttivi, come dicevo prima, che aumentino l'efficienza di cella e che possano ridurre i costi. Ricordiamo poi che ultimamente bastano 4 grammi di silicio per creare un watt di picco, mentre qualche anno fa ne servivano addirittura 8. E quindi anche la diminuzione del materiale ci porta in questa direzione. E speriamo davvero che si possa riportare questa industria fotovoltaica in Europa. Ci fermiamo qui. Grazie professor Dughiero, appuntamento come sempre a domani.